storia insegna che il potente opprime, che la gente è mossa da violenze, cerca la dignità per seguire la sua libertà. È la rabbia lo che tu sientes, che ti porta ancora alla lucidità. Il tempo non cancella le battaglie del passato, presente e futuro non cambia mai, mai, mai. Ricordati l'odore del sangue che hai versato e di quanto ancora ne verserai. Dimmi per cosa vuoi morire, per che cosa morirai, in una nuvola di sangue, fumo, polvere. Dimmi per cosa vuoi morire, per che cosa morirai, la mia libertà, la mia. Scende armata in piazza, difendendo un ideale, chi già terra si rialza, affannando poi ricade, chi sorride si lamenta, ricorrendo situazioni, c'è chi piange e grida aiuto, scappa in ogni direzione, ma non per questo, la gente riparte poi viene e va, la violenza a volte è necessità, ma attento a me, che in piazza con te si combatterà soltanto la povera società. Dimmi per cosa vuoi morire, per che cosa morirai, in una nuvola di sangue, fumo, polvere. Dimmi per cosa vuoi morire, per che cosa morirai, la mia libertà. Il silenzio e lo stupore, in un battito di mani, ci abbandona la giustizia e muore caro. Dimmi per cosa vuoi morire.